verso il voto. Benvenuti al punto politico della giornata, commenti contrastanti sull'assegnazione dell'Expo 2015 a Milano. Silvio Berlusconi prende le distanze da Romano Prodi. Alessandra Schepisi. Sono molto lieto, ma non è certo merito di Prodi. Commento tagliente quello di Berlusconi sull'assegnazione dell'Expo 2015 a Milano. Il cavaliere loda la regia del sindaco Moratti, nessun riconoscimento invece ai suoi avversari. Credo che questo sia una boccata d'ossigeno per il nostro paese, che in questo momento purtroppo è nell'immaginario collettivo internazionale il paese sotto le immondizie. Credo che dobbiamo essere tutti felici, contenti per un risultato di questo genere che certamente non è merito del governo della sinistra. Al premier dimissionario poi riserva un'altra stoccata, l'accusa di aver lasciato in eredità un paese in declino, e se c'è inflazione dice la colpa è tutta sua. Questo record negativo di un'inflazione al 3,3%, che è esattamente quella che Prodi era riuscito a raggiungere durante il suo governo nel 96. È per questo, dice il leader del PDL, che non è più tempo di sogni, la situazione economica è cambiata. Al governo ci sono problemi da risolvere che fanno tremare le vene ai polsi. Poi annuncia lotta all'evasione, aliquota fiscale massima al 33%, basta con i condoni e taglio dei costi della politica. L'eliminazione di tutti gli sprechi, i privilegi, di enti inutili, dimezzamento del numero dei parlamentari, cioè l'eliminazione di tutte quelle spese che fanno del nostro Stato lo Stato più costoso in Europa. Il leader del PDL interviene anche su Alitalia. Una follia pensare di rinunciare alla compagnia di bandiera. Quanto al confronto TV insiste, la legge sulla par condicio che non permette il faccia a faccia con Veltroni. Sull'Expo 2015 soddisfazione invece del presidente del Consiglio Romano Prodi. Bene. 86 per noi. 86. Molto bene, 86. 86 è proprio quello un po' speravamo. E Prodi risponde anche a Berlusconi: ci vuole sempre qualcuno che rovina le belle cose del paese. Si vergogni, dice Prodi, mentre per il segretario del PD Walter Veltroni è un riconoscimento importante della prova che quando il paese si muove unito riesce a raggiungere grandi risultati. Il segretario del PD parla anche della necessità di snellire la burocrazia dello Stato e lancia la proposta di ridurre le leggi. Noi entro la fine di quest'anno ci mettiamo in condizione di abrogare 5.000 del pacchetto di 21.000 leggi che sono oggi operanti in Italia, e la riduzione di tutte le leggi e i regolamenti dello Stato a non più di 100 testi unici e non più di 1.000 leggi speciali. A viva voce poi Veltroni insiste sulla necessità di un duello TV con Silvio Berlusconi. In tutti i paesi si fa il duello tra i due contendenti principali, in Italia non si fa. Ieri un candidato alla presidenza del Consiglio ha detto agli italiani una cosa falsa. E cioè ha detto agli italiani: non si può fare perché la legge lo impedisce. Dove sta scritto? Veltroni difende l'operato del governatore della Campania Antonio Bassolino sui rifiuti ed è contrario alle dimissioni. Prima cosa, non è solo colpa di chi ha governato la regione. Questa è una storia che dura da molti anni. Chi è stato al governo 5 anni in questo paese ha una quota di responsabilità consistente, perché tra il 2001 e il 2006 questo problema c'era. Infine un'altra stoccata, le critiche di Berlusconi sulla gestione di Roma come sindaco. Per il segretario del PD, quando Berlusconi era presidente del Consiglio, si sperticava di lodi, ma adesso, dice Veltroni, c'è la campagna elettorale. Sull'emergenza rifiuti a Napoli interviene anche il leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini, che attacca Veltroni. Veltroni, invece che tagliare 5.000 leggi, proposito lodevole, potrebbe tagliare la campagna, far dimettere Bassolino, farebbe una cosa più significativa e soprattutto un fatto, non chiacchiere e promesse preelettorali. Casini non risparmia critiche anche a Berlusconi e alle divisioni sugli immigrati con la Lega. Già Bossi si sta manifestando quello che sarà in questi prossimi 5 anni. Cioè la spina al fianco di Berlusconi, perché è diventato determinante. La Lega oggi è la forza determinante e Berlusconi dovrà stare agli ordini di Boss. Sul voto agli immigrati interviene anche il leader della destra, Francesco Storace. Che ci manca che fra poco propongano anche il Corano nelle scuole. Io credo che questa storia sia davvero indecente. A sinistra invece Fausto Bertinotti esclude l'alleanza con il Partito Democratico dopo il voto. Il Partito Democratico ha scelto di andare da solo e ha costruito un programma sostanzialmente neocentrista che rende impossibile l'intesa con un programma di sinistra come il nostro. Enrico Bosali dei Socialisti invece torna sul mancato accordo con il Partito Democratico, risponde a Veltroni. Il segretario del PD dice a viva voce che aveva proposto un'alleanza. Enrico Bosali risponde: Veltroni mente, mi ha semplicemente chiesto di liquidare i socialisti. Verso il voto finisce qui. Un saluto da Elisabetta Fiorito.